consola il lassi, oppur chi ne concede negli occhi un vivo fonte, da poter lagrima, da poter lagrima. Quanto più lieto già, tanto più lesto. Oggi, turba crudele, i due lumi maggiori di queste nostre sere. Alas, Strane sconosciute vie. Reggesti il passo debole tremante, ond'oggi ancora spero di riveder quelle beate luci che sole agli occhi miei contano il giorno. Ecco la trappalure, ecco il nocchiero che trae legno di spirti all'altra riva. Temerario teniente resta i passi solcar quest'onde ad uom mortal non tassi ne può con morti albergo aver chi vive che voi forse nemico tartare porte ora pie bravi sua cara consorte di impudico desire acceso il cuore or frena il voler dir che entra il mio legno non accorrò più mai corpo salma si degli antichi oltraggi ancora